Salva Danaio di Deborah Rosciani. La giornata di oggi per lo spread è positiva perché siamo scesi sotto il 300 e desidero anche confessare che per me c'è un livello di spread che è di 287 punti base che rappresenta, e spero che sia presto toccato, un punto di particolare significato, perché sarebbe esattamente la metà dei 574 con i quali il nostro percorso è iniziato. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Ecco perché Mario Monti si è posto l'obiettivo dei 287 punti base, svelato il mistero ieri. Buongiorno da Deborah Rosciani, chiaramente sono stata oggetto di un po' di tirate di orecchi da parte di alcuni ascoltatori perché non avevo ben precisato questa indicazione data appunto dal premier italiano, e avevo detto perché ha detto i 287 punti base, perché non si è dato un obiettivo più coraggioso, magari 280, 270, 260, e non avevo appunto ben specificato che Mario Monti aveva rilasciato questa dichiarazione molto chiara al vertice italo-francese di Lione. Aveva detto: io guardo ai 287 punti base perché è esattamente la metà dello spread che ho trovato quando ho assunto l'incarico di governo. Detto questo, dopo essermi cosparsa il capo di cenere a beneficio degli ascoltatori che ieri mi hanno segnalato appunto un po' di superficialità nel commentare certi fatti, eccoci qua alla nostra trasmissione di oggi. Come diceva appunto Monti, lunedì 3 dicembre lo spread è sceso per la prima volta da 9 mesi sotto la soglia psicologica dei 300 punti base, toccando il minimo di 292 punti, salvo poi risalire a 303 in chiusura di giornata. Anche stamattina viaggia leggermente al di sopra, siamo sui 309 punti base. Nella giornata di ieri il differenziale fra il rendimento dei titoli di Stato decennali italiani e i Bund tedeschi di pari durata ha oscillato sempre intorno ai 300 punti. La notizia, accolta come la conferma del progressivo ritorno di fiducia nella solidità del debito italiano, è stata commentata positivamente anche da Monti, lo avete sentito. Se da un lato fondi, banche centrali, fondi sovrani stanno ricominciando, grandi fondi di investimento internazionali appunto stanno ricominciando a comprare il debito italiano, dall'altro anche piccoli risparmiatori che investono nei titoli di Stato e che vedono allentarsi l'attenzione sul debito sono interessati a capire quali sono le scelte migliori da fare in questo frangente. Allora, su quali prodotti investire? Se guardiamo, se siamo molto affezionati perché siamo prudenti al mercato obbligazionario, su quali prodotti puntare, su quali durate occorre, o adesso sarebbe il caso di cominciare ad allungare le scadenze, quanto investire del nostro portafoglio. Salva Danaio raccoglie le vostre considerazioni, i vostri consigli, i vostri suggerimenti, rispondendo alle domande di voi tutti all'800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta con noi questa mattina, Marco Vicinanza, responsabile della direzione investimenti di Arca SGR. Buona giornata, bentornato. Buongiorno. Giordano Beani, direttore investimenti di BNP Paribas Investment Partners. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovati ad entrambi. Oltre al numero verde, gli ascoltatori, ce n'è già qualcuno che ci scrive sul buyback della Grecia. Adesso vi spiegheremo che cosa vuol dire in gergo finanziario questa operazione. Gli ascoltatori appunto ci possono anche scrivere al 349-238-6666 sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, al nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it, e potete anche divertirvi su Twitter su @salvadanaio24. Lo spread l'abbiamo già raccontato come va stamattina, adesso vediamo un po' come va complessivamente la borsa. Ieri giornata di rialzi che aveva visto particolarmente protagonista della seduta europea Piazza Affari, il differenziale si restringe e quindi chiaramente volano le banche. Stamattina abbiamo su per giù lo stesso andamento, però Milano, che ieri ha chiuso con un rialzo di oltre un punto, anche stamattina aveva aperto con un progresso di oltre un punto percentuale, adesso invece riduce abbastanza sensibilmente il suo guadagno, più 0,20%. Comunque consolidiamo i rialzi di ieri e non è poco. Più 0,12% su Parigi, più 0,20% 20 Francoforte, Londra più 0,16. E stamattina quali notizie abbiamo a cui il mercato guarda? Intanto abbiamo avuto quest'asta di titoli di Stato spagnoli. Il Tesoro iberico ha messo sul mercato titoli con scadenza 3, 7, bonus per 10 anni per 4 miliardi e 250 milioni di euro, un po' meno del target massimo che il Tesoro spagnolo si era dato, 4 miliardi e mezzo, registrando però tassi in calo. Tanto per fare un esempio, il rendimento medio sul bonus a 10 anni è sceso al 5,29% dal 5,45% dell'asta di ottobre. Il rendimento invece del BTP italiano viaggia sotto il 4,5%, per cui abbiamo un punto percentuale di differenza. Oggi abbiamo moltissimi dati che arrivano dagli Stati Uniti, dati macro. Peraltro domani abbiamo anche le riunioni della Bank of England e della Banca Centrale Europea. Cosa arriva oggi dagli Stati Uniti? Le richieste di nuovi mutui, l'indice ADP che anticipa il dato sull'andamento dell'occupazione americana, i dati sugli ordini alle aziende per ottobre, produttività e costo del lavoro, per cui oggi osserveremo con grande attenzione Wall Street. I migliori titoli di Milano: Azimut più 1,87, STM più 1,62, Finmeccanica più 1,36, i tre peggiori: Terna meno 1,37, Ansaldo meno 1,23, Salvatore Ferragamo meno 0,8%. Oggi però il nostro focus è di nuovo tutto sullo spread. Vuoi per scherzo, vuoi per slogan, vuoi per una reale curiosità, lo spread è ormai entrato nei discorsi di tutti e, forse non proprio tutti, ma molti, possono dire di aver capito cos'è questo famoso differenziale di rendimento tra BTP decennali e Bund tedeschi, che ha portato tante preoccupazioni e cambiamenti. Lo spread. Era il 10 novembre del 2011 quando il Sole 24 Ore titolava a caratteri cubitali: fate presto. Quel giorno lo spread tra BTP e Bund aveva toccato ben 575 punti base. La gravità della situazione era davanti agli occhi di tutti e da quel momento molte cose erano destinate a cambiare, a partire dall'insediamento del governo tecnico guidato da Mario Monti. Con l'inizio del 2012 la tensione si è allentata, anche grazie alla BCE guidata da Mario Draghi, che ha iniettato nuova liquidità nel sistema bancario. Nel corso della primavera, però, l'effetto di queste decisioni è scemato e si sono progressivamente ricreate forti tensioni su BTP e sui titoli degli altri paesi sotto stress dell'area euro. La temperatura ha ripreso a scendere a metà estate, sempre grazie alle parole di Mario Draghi, che aveva confermato come la BCE fosse pronta a tutto per preservare l'euro, facendo seguire a queste parole un nuovo piano di possibili acquisti calmieranti di bond, OMT. Nel frattempo i governi hanno attuato nuovi accordi sui sistemi anticrisi, dando vita al nuovo fondo Salva Stati ESM. Lunedì, per la prima volta da marzo, il famigerato spread è tornato a scendere sotto i 300 punti base. Non si può ancora tirare un definitivo sospiro di sollievo, ma si tratta sicuramente di un segnale che conferma il progressivo ritorno di fiducia nella solidità del debito italiano. Abbiamo rubacchiato lo slogan preferito della trasmissione di Cappa e Drago, chiedo asilo, del nostro pomeriggio, perché anche loro, un po' per evidentemente calmierare la tensione degli ultimi mesi, hanno un po' preso in giro questa ossessiva attenzione per il differenziale fra Italia e Germania che abbiamo avuto tutti, però evidentemente abbiamo avuto questa attenzione molto forte anche a ragione, perché Giordano Beani, oggi le condizioni sono ben diverse da un anno fa e vedo anche sui vostri volti un po' più di distensione rispetto a quanto appunto non poteva succedere effettivamente 12 mesi fa. 300 punti è una soglia che ritenete interessante? Banca d'Italia vede uno spread ottimale intorno ai 200 punti, più realistico appunto Mario Monti, che invece lo vede a 287, ma è il suo personale obiettivo. Quale riflessione possiamo fare su questo livello attuale? Poi andremo anche alle indicazioni pratiche e concrete per i nostri piccoli risparmiatori all'ascolto. Sicuramente il livello attuale è decisamente più interessante e più confortante rispetto a quello che avevamo un anno fa, ma quello che avevamo anche soltanto all'inizio di luglio, cioè prima che il governatore Mario Draghi cominciasse a prendere le difese in maniera seria appunto della situazione sull'euro. Gli obiettivi sono sempre difficili, insomma, da stabilirsi. Io credo che il professor Monti in questa circostanza si sia dato il margine, in realtà, per andare oltre al miglioramento obiettivo dei 287 punti base, nel senso che se vogliamo il grosso della crisi è iniziata con uno spread a 200 punti base, no? Aprile-maggio dell'anno scorso, poi da luglio in avanti c'è stata un po' la catastrofe. Credo che, per dire che la situazione è di nuovo tornata effettivamente sotto controllo, probabilmente invece che la metà dei 5,74, un terzo, cioè 190 punti base, forse sarebbe un obiettivo un po' più ambizioso da darci, e credo che ci si potrebbe anche arrivare, insomma, in area 200 punti base. Qui è necessario ovviamente che anche il resto dell'Europa poi faccia, esatto, la, infatti la prossima domanda che volevo girare a Marco Vicinanza era proprio questa: contano più un po' le condizioni internazionali che hanno allentato la loro presa? Mi riferisco, per esempio, tanto per citarne una delle più recenti, il Parlamento tedesco che ha dato il via libera all'erogazione della nuova tranche di aiuti alla Grecia, quindi anche la signora Angela Merkel un po' meno rigida rispetto al passato nel concedere gli aiuti allo Stato ellenico, appunto, oppure contano anche i percorsi intrapresi nel nostro paese? Ho la sensazione che mi dirà magari è tutto un insieme, però secondo lei, insomma, se dovessimo così utilizzare una bilancia, qual è il peso che incide di più? Io, più che rispondere usando appunto un'espressione banale, quindi il merito è di tutte e due le cose, direi una cosa un po' più specifica. Sicuramente l'effetto Draghi è l'effetto decisivo. Il fatto che la Banca Centrale Europea si sia posta come di fatto prestatore di ultima istanza, anche se sotto condizionalità, ma pur sempre il prestatore di ultima istanza, è il fatto decisivo. Però la Banca Centrale non avrebbe avuto questo atteggiamento, la Merkel non si sarebbe ammorbidita se l'Italia e i paesi dell'area, diciamo i cosiddetti paesi periferici, non avessero mostrato un enorme impegno verso il risanamento. Il contesto europeo adesso è un contesto politicamente più rilassato, perché i paesi che avevano avuto indisciplina fiscale ora mostrano un atteggiamento completamente diverso. Secondo lei l'Italia farà richiesta di questa disponibilità della Banca Centrale Europea? Perché da molte settimane circola sul mercato anche questo interrogativo. Ancora di fatto la Spagna ieri ha avuto il via libera ai fondi necessari per ricapitalizzare le banche, ma appunto ancora lo Stato non si è messo sotto la protezione della Banca Centrale Europea. Abbiamo in vista anche un potenziale intervento sull'Italia, secondo lei? Dunque, qui forse c'è da fare un paio di riflessioni. La smetta di toccare il microfono, sennò vengono alle bacchette le mani. Non lo tocco più. C'è da fare un paio di riflessioni. Nel mondo ideale per l'Italia, la Spagna applica, i mercati si convincono che il meccanismo funziona e l'Italia può evitare di farlo. Detto questo, la seconda considerazione: io non ritengo sarebbe un dramma una situazione nella quale l'Italia dovesse applicare, perché si parla spesso del tema della perdita di sovranità in caso di richiesta, perché ci imporrebbero le condizioni. La mia sensazione è che ormai siamo in un percorso dove una buona parte della sovranità in tema di disciplina fiscale è già stata persa. Beani, vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo, il tema della perdita della sovranità? Poi poco interessa magari ai nostri ascoltatori che acquistano BOT e BTP, però è una riflessione interessante anche magari in questa prospettiva. Sì, no, l'unica cosa che aggiungerei è che verosimilmente, se i mercati continuano a comportarsi così, in realtà non c'è bisogno per nessuno di ricorrere all'aiuto della BCE, nel senso che l'effetto si è di fatto autorealizzato. E come vediamo, anche la Spagna temporeggia da parecchio tempo, no? Mentre era data candidata come prima nazione a richiedere gli aiuti. Quindi verosimilmente, se non ci sono grossi scossoni, probabilmente sia Spagna sia Italia cercheranno, come dire, di far ricorso il più possibile a emissioni nuove, no? Come il tema del BTP Italia, ad esempio, per poter, come dire, incamerare tutti i benefici del forte miglioramento dei mercati. Probabilmente potremmo anche, come dire, vedere una situazione in cui non si realizza mai questo fatto. Però abbiamo anche visto che questa è una crisi che, per la verità, ogni tanto ci presenta anche delle sorprese del tutto inaspettate, per cui comunque non è il caso forse di abbassare la guardia, come tutte le autorità internazionali stanno facendo. Un'ultima battuta prima di andare alla nostra prima pausa. Ancora molti ascoltatori si interrogano sui trend di mercato come quello che si è manifestato ieri. Perché quando il differenziale fra Italia e Germania scende molto, sono proprio le banche ad avere l'effetto immediato e più forte a Piazza Affari, Vicinanza. Ricordiamo quanti titoli di Stato hanno in pancia le banche e perché chiaramente hanno ricevono come buona notizia uno spread che è più contenuto. Naturalmente c'è un effetto tecnico molto chiaro e molto visibile. I bilanci delle banche migliorano significativamente nel caso in cui lo spread si riduca e, a parità di rendimenti tedeschi, il rendimento dei titoli italiani quindi cala, con apprezzamento in conto capitale dei titoli posseduti dalle banche. Quindi l'effetto immediato è questo. C'è un effetto secondario, che è legato al fatto che in un contesto con una struttura dei tassi più bassi diventa più facile per le banche finanziarsi, diventa più facile per le banche fare profitti. E un po' meno però dare questi soldi alle imprese, ma questa è un'altra battaglia che facciamo in altre trasmissioni. Le banche italiane hanno in bilancio 327 miliardi di euro di BTP, di valore di BTP, lo ricorda questa mattina sul Sole 24 Ore Moria Longo, e peraltro sono 118 miliardi in più rispetto al dicembre del 2011, per cui grazie anche alla liquidità messa sul mercato dalla Banca Centrale Europea e derogata proprio direttamente alle banche con le varie operazioni straordinarie dei mesi scorsi, anche le banche italiane chiaramente hanno dato il loro contributo ad un allentamento dello spread, giustamente dovevano farlo anche loro. Ci fermiamo, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Già pronto Enzo da Firenze, ma anche l'ascoltatore che ci chiede qualche cosa di più sul buyback greco. Su tutto questo vi rispondiamo tra qualche istante. Salva Danaio. Lo spread cos'è che vuole? Dow Jones, lo spread. Cappa e Drago ci aiutano oggi ad arricchire dal punto di vista della colonna sonora la nostra trasmissione, sono i colleghi della trasmissione Chiedo Asilo del pomeriggio, e il tema appunto che affrontiamo anche noi oggi a Salvadanaio è il tema di questo famigerato spread. Ormai abbiamo grande confidenza con questo termine, anche gli totalmente disinteressati a questo argomento se lo ritrovano in ogni giornale, anche se non leggono quelli finanziari, magari un piccolo commento sul differenziale fra Italia e Germania lo hanno fatto tutti quanti, ma in ogni caso il tema è che questo differenziale negli ultimi giorni è sceso e sta gravitando intorno ad una soglia psicologica molto importante, 300 punti base. È sceso anche leggermente al di sotto, siamo ritornati sui livelli di marzo scorso, ben lontani da quel pericolosissimo record di 575 punti base toccato nel novembre di un anno fa. Cosa vuol dire tutto questo? Intanto chiaramente respirano le casse pubbliche, gli interessi sul debito sono un po' più leggeri, non tanto, ma quantomeno l'Italia paga meno sui mercati internazionali. È un bene questo anche per chi detiene titoli di Stato, per chi vuole sottoscriverne adesso, nelle prossime aste, o per chi vorrà farlo l'anno prossimo. Temi che commentiamo stamattina con Marco Vicinanza, responsabile della direzione investimenti di Arca SGR, Giordano Beani, direttore investimenti di BNP Paribas Investment Partners. Enzo da Firenze, nostro primo ascoltatore di oggi, con la sua domanda. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah e grazie mille per l'importanza di questa trasmissione e tutte quelle che fate. Io volevo fare una piccola domanda. Io sono un piccolo risparmiatore, ho acquistato quest'estate un BTP trentennale con scadenza 2029 e con una cifra modesta, circa 14.000 euro, e mia bontà mi ritrovo adesso ad avere, oltre ad aver ricevuto una buona cedola, anche un ottimo capital gain, quindi siamo intorno ai 2.000-2.200 euro di capital gain. Ora la domanda può sembrare un po' soggettiva, però viste le mie conoscenze che sono abbastanza basse, io sarei tentato di vendere tutto e far cassa perché non se l'aspettava. Soldi. Però Enzo, le faccio una piccola provocazione: per chi si avventura in un terreno di investimento così a lunga durata, non ha l'obiettivo di starlo a guardare ogni giorno per verificare, appunto, forse lei proprio ha, come dire, registrato in maniera del tutto inaspettata questo capital gain, appunto questo guadagno, per cui dice, sai che c'è, quasi quasi incasso immediatamente. Sì, io volevo tenerlo lì a posto nel cantuccio, però ho visto che ci sono 2.000 euro in più. Ecco, un esperto economico, siccome delle banche mi fido molto poco, perché se vai a una banca ti dice vendi e compri una nostra obbligazione. Sì, devo dire che i nostri ospiti di stamattina non è che facciano proprio i fruttivendoli, ecco. Però sì, lavorano diciamo nel settore. Comunque sì, Enzo, no, la stavo prendendo un po' in giro, mi dica. No. Cosa farebbe un esperto? Monetizzerebbe questo? O potrebbe provare a aspettare in vista di quelle che sono le prossime, insomma, i prossimi rischi di rialzi o prospettive di rialzi. O prospettive anche di ribasso, non so. Enzo, sentiamo un po' quali sono le ricette che di fronte ad un cliente che ponesse una domanda di questo tipo cosa risponderebbero Marco Vicinanza e Giordano Beani. Beani, comincio con lei. Allora, c'è chi addirittura si prende un BTP di durata così lunga in questo momento al posto di un fondo pensione, per cui magari se l'obiettivo è questo, c'è chi fa addirittura questa scelta, glielo assicuro perché me lo hanno raccontato. Però lui dice, insomma, io ho ottenuto questo guadagno in maniera davvero inaspettata, non era forse ben consapevole di come potevano maturare i loro effetti le oscillazioni dei titoli di Stato dall'estate scorsa in avanti. Cosa direbbe Enzo? Sì, adesso bisogna vedere esattamente che cedola ha questo BTP. Comunque, se l'obiettivo dell'investimento in realtà è stato, tra virgolette, un po' casuale, cioè ho comprato il trentennale perché pensavo di tenere lì l'investimento per tanti anni senza guardarlo. Se la decisione è stata casuale, siccome è stata fortunatissima come decisione, nel senso che è venuta sì sui minimi praticamente di mercato, e data la sensibilità che i titoli trentennali hanno in termini di prezzo alle oscillazioni dei tassi, ecco che forse qui, e lo dico disinteressantemente, nel senso che non consiglierò un'obbligazione della nostra banca al nostro radioascoltatore, però se è stato così, diciamo, il meccanismo dell'investimento, probabilmente è meglio effettivamente portarli incassare a casa e orientarsi su, come dire, scadenze un po' più brevi, che chiaramente adesso rendono meno, però non so, su BTP 5 anni riusciamo ancora ad avere un 3,30 lordo, però con una, come dire, sensibilità appunto del prezzo dell'investimento molto inferiore. Intendo dire che se da qui alle elezioni dovesse esserci un momento un po' difficile, no? Che potrebbe anche succedere. Comunque una bella, ecco, un po' di volatilità, ecco, la vedremo. Che questo capital gain andrebbe, come dire, no? Potrebbe sparire in breve tempo. Quindi. Certo, oppure se proprio lui è un affezionato, Marco Vicinanza, del BTP trentennale, intanto che ha ricevuto questo regalo di Natale con grande anticipo, questo uovo di Pasqua, il nostro Enzo, che se lo porti a casa e magari si riposizioni di nuovo con una cifra un po' più modesta sul BTP trentennale, magari diversificando un po' il suo giardinetto. Sostanzialmente sì, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Giordano Beani. Ci sono due approcci possibili per decidere di mantenere l'investimento nel BTP trentennale: o veramente un'idea di volerlo tenere molto a lungo, perché può costituire, come detto, una possibile pensione. Cioè, è stata una combinazione di intuito, freddezza fantastica, il titolo è stato comprato a prezzi ottimi, il rendimento molto interessante, può essere tenuto lì molto a lungo e dare cedola. Se non si ha questa prospettiva così lunga, e considerando quello che si diceva, che è un titolo molto volatile, l'idea è prendiamo profitto parzialmente o totalmente, riposizioniamoci con qualcosa di un po' meno volatile. Volatile. Quindi stiamo parlando di titoli a più corta scadenza. A proposito di volatilità, vi chiedo, prendo anche a spunto una riflessione di un ascoltatore su Twitter, Marco, che dice: con Bersani e Vendola lo spread non risalirà, per me sì, più che fare un'associazione di andamento di differenziale fra Italia e Germania rispetto ai personaggi politici indicati. Guardando al momento elettorale della prossima primavera, in molti vostri colleghi mi hanno detto che comunque da qui a quel momento un po' di volatilità sul mercato la rivedremo, per cui sarà un po' più accentuata sul mercato obbligazionario rispetto alla borsa. Beani, quindi a quali fattori dobbiamo fare attenzione come investitori nei prossimi mesi? Guardare con ossessione il day by day, il giorno dopo giorno, appunto, sui mercati, oppure far finta di niente, tapparci naso, occhi e orecchie e lasciare andare, perché tanto sappiamo che nei prossimi tre mesi un po' di fibrillazione potrà tornare? Io credo che ai mercati in questi periodi di forte crisi interessi diciamo al massimo la certezza, no? O quantomeno il fatto di avere delle cose un po' più chiare. Quindi, negli Stati Uniti, per esempio, è tutto molto stabile in fase di campagna elettorale, ma noi non siamo gli Stati Uniti, no, evidentemente. No, evidentemente no, però è chiaro che se i sondaggi dovessero mostrare, no, indipendentemente dal colore politico, però una coalizione in netto vantaggio, questo comunque sarebbe segno di stabilità, una cosa appunto che tranquillizzerebbe i mercati, indipendentemente dal commento del nostro radioascoltatore, se i leader del centro-sinistra saranno in grado di mantenere lo spread, perché in questo senso, cioè in questa direzione, in realtà sappiamo che qualsiasi governo si affaccerà sulla scena italiana avrà un percorso comunque molto ben disegnato dall'Europa, dove per l'Europa, semplificando, potremmo dire dalla Germania. Quindi non ci sono grandissimi margini di oscillazione. Il vostro quotidiano oggi riportava un articolo, secondo me molto molto interessante e ben scritto, proprio sul fatto che comunque le scelte in termini di politica fiscale, politica economica, e sono di fatto ormai dettate, sono tracciate, e nessun governo, a meno che non sia un governo di alternativa radicale, cosa che per il momento nei numeri non si intravede, non dovrebbe portare a fortissimi scossoni. Ed è per questo probabilmente che i mercati sono relativamente tranquilli, perché è difficile pensare che oggi, che siamo a fine anno, i mercati non stiano già pensando a che cosa succederà alle elezioni. Solitamente, cioè, come dice, i mercati, no? Guardano un po' avanti, ecco. Esatto, è un po' come il discorso velocemente del fiscal cliff in America, nel senso che fino alle elezioni i mercati non se ne sono curati, poi c'è stata una settimana subito dopo la rielezione di Obama dove sembrava essere c'era proprio il precipizio sia di borsa oltre che quello fiscale, però poi si è ad oggi risolto tutto, anche se fino adesso non abbiamo avuto ancora soluzioni definitive. Il mercato, diciamo, è abbastanza confident, fiducioso nel fatto che un accordo si troverà entro Natale. Marco Vicinanza, prima della prossima pausa, i suoi fondi di investimento sono appassionati al dibattito elettorale italiano oppure sono totalmente dissociati da questi argomenti? Ma io direi che per molti anni il rischio politico era un po' scomparso dai radar e adesso di nuovo qui. Farei la seguente considerazione: sicuramente ci sarà un po' di nervosismo a cavallo dell'evento, ma concordo con quanto si è detto, non credo che questo si sfocerà in panico, proprio per quello che dicevo prima. Una buona parte dei nostri gradi di libertà nella politica fiscale non c'è più, i sentieri sono abbastanza segnati. L'altra cosa che direi è che non sarà solo l'Italia, le elezioni politiche italiane a generare nervosismo, volatilità. Tutto il processo di governo dell'area euro è in fase di forte miglioramento, ma è un processo lungo, tortuoso, che avrà dei momenti positivi e dei momenti negativi. Quindi intendiamoci, il contesto è molto più tranquillizzante, molto più sereno rispetto a quello che era, non è calma piatta. Non abbiamo ancora terminato anche il dibattito a Bruxelles su tante questioni aperte. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio? Sì, questo benedetto buyback greco, Vicinanza, adesso le tocca, subito dopo aver sentito cosa sta capitando sulle strade italiane. Salva Danaio. Se il debito è di tutti, perché paghiamo noi? Super Mario, dove sei? Super Mario, cosa fai per questo spread? Sapete che anche noi ormai abbiamo un tormentone musicale al giorno. Quello di oggi è appunto la canzone dedicata allo spread dei nostri K e Drago. Allora, buyback greco, cosa è successo negli ultimi giorni? Che nella sostanza tutti i paesi europei sono stati d'accordo finalmente, dopo trattative estenuanti che sono durate lunghe nottate, nel erogare la nuova tranche di aiuti appunto alla Grecia. Denaro che, sintetizzo molto le technicalità appunto dell'operazione, denaro che la Grecia utilizzerà per anche effettuare queste operazioni di buyback del proprio debito, cioè tutti i titoli obbligazionari in circolazione che erano già stati ristrutturati nei mesi scorsi, un piano di ristrutturazione anche complicatissimo che abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori, la Grecia adesso dice: sapete che faccio? Adesso un po' io di questi, Marco Vicinanza, ho capito bene, me li ricompro. E ci sono degli ascoltatori appunto che hanno questi titoli. Io non ho capito bene chi ci scrive, se ha aderito alla ristrutturazione appunto annunciata la scorsa primavera, e adesso loro si hanno aderito alla ristrutturazione, quindi c'è già un piano di rimborso abbastanza lungo nel tempo, un po' modello argentino, che è appunto stato pianificato dal governo greco. Che cosa vuol dire che adesso reinterviene la Grecia su questi stessi titoli? Sì, bisogna inquadrare il contesto della decisione. Il punto di partenza è un punto tecnico. Il Fondo Monetario Internazionale per statuto non può finanziare un paese se non ha la tranquillità che il debito del paese sotto finanziamento sia sostenibile. Nel linguaggio del Fondo Monetario Internazionale significa di fatto che il debito si deve stabilizzare a livelli non esplosivi. Questo livello è stato individuato nel 120% del GDP. Alle condizioni attuali questa condizione non era verificata. Il debito greco, facendo ipotesi plausibili, esplodeva. Col risultato che il Fondo Monetario Internazionale rischiava di doversi tirare indietro dal finanziamento, lasciando solo la parte europea a sostenere il salvataggio della Grecia. L'escamotage trovato è questo del finanziamento. Sostanzialmente la Grecia ottiene un finanziamento monetario col quale ricompra indietro il proprio debito e lo cancella di fatto. Mm-hmm. In questo modo qua il debito il rapporto PIL si abbassa e la sostenibilità a quei livelli richiesti dal Fondo Monetario Internazionale è garantita. Guardando quindi nel concreto, abbiamo avuto questi titoli già ristrutturati che avevano valori molto sacrificati. Quando sono emerse le prime voci che questo poteva essere la soluzione, i titoli hanno guadagnato. Adesso il tesoro greco li ricompra a prezzi più alti di quelli che sono stati i prezzi nell'ultimo periodo. Sostanzialmente può essere una buona opportunità di liberarsi del problema. Non abbiamo fatto riflessioni particolarmente approfondite, semplicemente perché per noi in Arca questo non è un problema. Noi non abbiamo in portafoglio titoli greci, quindi nelle tecnicalità non entro, però direi che è un'occasione per liberarsi definitivamente. Infatti io ho detto prima una parola abbastanza significativa per molti: Argentina. Detto questo, poi magari se il vostro investimento è marginale potete anche rischiare di tenervelo lì un po' a lungo e vedere come si evolveranno le condizioni di mercato. Detto questo, sappiate che dall'Argentina appunto siamo ritornati a parlare venerdì scorso, dopo 10 anni dall'avvio della prima ristrutturazione. Ne ha fatte 2 e rischia di farne una terza adesso, per cui insomma vedete un po' voi se volete stare sull'otto volante, sui carboni ardenti per tutto questo tempo. 800 24 00 24, il numero verde ancora per qualche minuto di domande dei nostri ascoltatori. Franco da Cervia: questa mattina veramente il BTP trentennale è il grande protagonista della nostra trasmissione. Le è capitata la stessa fortuna dell'ascoltatore precedente, Franco? Ma buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, per il servizio che offrite. Grazie. A noi comune mortali praticamente. Siamo anche noi, guardi Franco, glielo posso assicurare, qua è una lotta continua per tutti, ci dica. Praticamente più che un caso fortuito è stato un investimento voluto, perché era un titolo che seguivo da tempo. Ecco, ci piace di più questo approccio, non che non ci piacesse quello di Enzo, ma veramente abbiamo avuto la sensazione che si fosse ritrovato per sua fortuna in un momento totalmente favorevole. No, perché praticamente io l'ho acquistato ad agosto e seguendolo un po' già da tempo, vedendo anche i valori bassi che dava in quel momento della quotazione, ho deciso di acquistarlo, soprattutto sfruttando la leva finanziaria, perché con piccolo importo ho deciso di acquistare più nominale, accumulando anche sulla cedola in quel caso praticamente. E niente, volevo il parere degli esperti sul tipo di titolo che ho preso, se ne valsa la pena o meno, visto anche la cedola che dà e il valore basso che io ho acquistato a 75. Che cedola mi chiedono gli ospiti, Franco? Il 3,50 netto, che è un 4 lordo praticamente. Che tra l'altro è un po' inferiore rispetto per esempio al rendimento che ha spuntato il BTP Italia erogato negli ultimi mesi, perché mi pare che lì siamo arrivati con l'erogazione della prima di settembre intorno al 5%. Detto questo, però, non è per una durata così lunga forse una... in questo momento un rendimento trascurabile o no? Detto una banalità, Beani? No, nel senso che il prezzo anche qui si è mosso fortemente, è un po' lo stesso discorso di prima, nel senso che si era comprato da agosto a oggi probabilmente il titolo aveva recuperato almeno un 20% il prezzo del titolo in conto capitale, quindi al rendimento a cui l'ha acquistato ad agosto adesso non ci sarebbe più, cioè nel senso la cedola è sempre il 4%, però la compro su un prezzo più elevato. Quindi anche qui dipende molto dall'obiettivo di investimento del nostro radioascoltatore, nel senso che se è un obiettivo di breve, siccome se non sbaglio ho fatto cenno al fatto che lo segue da tempo il titolo, se è così probabilmente, come dire, alleggerire una parte dell'investimento in questo momento, visto che è un investimento che ha una volatilità molto elevata, cioè significa che il prezzo, no, del trentennale oscilla del 10-15% per diciamo variazioni dei tassi magari di un punto percentuale, ecco allora forse che in questo momento converrebbe magari vendere parte o tutto l'investimento. E un suggerimento potrebbe essere quello che citava lei, cioè il discorso del BTP Italia legato all'inflazione, che ha comunque un rendimento a breve interessante, ha una scadenza molto più breve perché 5 anni e comunque protegge dall'inflazione eventualmente futura che ci dovesse essere. Quindi. Ecco, però anche lì diciamo non è un problema imminente, almeno secondo anche gli osservatori economici che più ricorrentemente appunto leggiamo, però in prospettiva tutta questa grande liquidità che c'è in circolazione in qualche maniera, in qualche modo dovrà essere riassorbita prima o poi, Marco Vicinanza, allora magari con gradualità cominciare a pensare anche ad un giardinetto di titoli di Stato che ne contenga qualcuno inflation linked, come si chiama in gergo, che protegga dall'inflazione? Ma sì, condivido quello che lei stava dicendo. Nel breve periodo è difficile immaginarsi una significativa recrudescenza del fenomeno inflazionistico. È evidente che essendo poi alla fine l'inflazione tendenzialmente un fattore monetario, tutta questa massa di liquidità pompata nel sistema potrebbe potenzialmente creare un problema più a medio termine inflazionistico, soprattutto se le banche centrali non saranno in grado di assorbirla rapidamente. Quindi la risposta in conclusione è lo strumento a tasso reale a breve non sembra particolarmente indicato, può essere un buon investimento per chi guarda al medio termine e vuole proteggersi da un possibile potenziale rischio. Buon lavoro ad entrambi, grazie a Marco Vicinanza, a Giordano Beani, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato per l'assistenza tecnica, Nodi Salvadanaio, come sempre ci ritroviamo qui domani puntuali alle 12:10. A tutti buona giornata.